3, 2, 1. Cancello. Allora, siamo di nuovo qui su Web Radio Luzzi dopo aver mandato i nostri messaggi a chi di dovere. E una volta l'anno scorso dicevamo la sgamalla, oggi diciamo Suca proprio direttamente. Comunque, per questo programma che come sempre va in autostrada contro mare per accorciare, è arrivata una nuova, per dare peso a questa trasmissione. Vogliamo parlare di natura, vogliamo parlare di ambiente, abbiamo deciso di parlare di quello che è verde, diciamo, il verde che c'è in noi, soprattutto in Calabria. Qua mi riprendono, mi fanno analisi. Beh! Appunto, da questa puntata in poi avrete veramente molte nozioni in più sull'agricoltura, perché sappiamo che chi ci ascolta sono braccia rubate all'agricoltura. Quindi linea Edoardo Grespelle con il momento Natura Più. Salve a tutti cari radioascoltatori e benvenuti alla nuova rubrica di Non Aprite Quella Persiana, una rubrica che vi avvicinerà al contatto con la natura e le sue bellezze. Il suo richiamo, la sua armonia. Per la nostra prima puntata abbiamo scelto un luogo ameno, il rifugio dei padri e ricco di storia e cultura. Ci troviamo, come potete ben udire, in un tipico appezzamento da pascolo a Mandatoriccio, in provincia di Terronia, appunto. Facendomi largo con la mia abominevole panza, mi accingo a raggiungere il proprietario, il signor Vittorio. Bene, signor Vittorio, ci può dire che cosa sta facendo? Salve, signor Vittorio. Come potete vedere, sto facendo tranquillamente un riposino. In pratica stavo a mancare nessuno. Ma come? Perché? Provaci tu a tazzare qua la mattina tutto per bande e allora pomeriggio dopo aver pasciuto le pecore e mungiuto le vacche. Perché, ci spieghi, lei come munge le vacche? Il metodo è semplice. Mi parcheggio un altro giovane un po' incomodo. Ti siezzo poi una pedra che ti ha portato in dotazione, ti metti quanti giavi tipo camerieri di classe, o che usano i femmini nella cucina, ti vedi? Che lavai i piatti. E con una pinza mungi forte tu trovi muoio. Quindi lei mi sta dicendo che funziona effettivamente così e che il latte non viene fuori dal rubinetto che avete in casa? Mi pare una picca ingiutata, oggi. Ma secondo te cosa mi pinge? Ma venisse da papà, quasi per caso. Comunque si fa con le mani, mo ti faccio vedere, ecco, così, prova. Certo, vorrei provare, ne sarei felicissimo. Allora. Ora prendo questa bella mucca muscolosa, mi siedo e inizio a fare come indicato prima Vittorio. Ma non capisco cosa succede. Ma pigliato d'oro, mi ha venduto 4 soldi, ma non è una madosca per te. Mo chi su ammazza, mo. È tutto dal vostro Eva Grespelle. Alla prossima puntata di Pere Gialle. Che dolore! Ai! Ai!